Tempo di Sport con Carlo Genta. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito. Rapporti che devo cambiare, lo stomaco dentro al giornale, per me devo restare lucido. E quanta strada che verrà, ma non mi avrai. Buon pomeriggio a tutti. Beh, siamo partiti sulle note di una canzone non nuovissima, non è la nuova sigla del Giro d'Italia, che sarà ancora di Paolo Belli, però questa meravigliosa Gimondi e il Cannibale, perché tra una settimana noi cominceremo a raccontare, saremo sui pedali, cominceremo a raccontare tutto il Giro d'Italia. Invece Angelo Zomenian, che del Giro è direttore, salirà sull'auto che piloterà la Carovana Rosa da Torino a Piazza Duomo lungo 3.524 chilometri e mezzo. Direttore, buonasera. Buonasera a voi. Ciao Angelo. Ciao. Qui con me il punto di vista che non può mancare di un super campione, che è sempre qui, come Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno, ben ritrovati. E poi la nostra voce del ciclismo, Dario Ceccarelli. Ciao Dario. Buongiorno, ciao Carlo. Io lascerei a Dario Ceccarelli la prima domanda al direttore del Giro d'Italia, poi altre verranno anche attraverso gli ascoltatori. 800240024, numero verde, o messaggio sms 349-238-6666, o anche una domanda via email che poi leggerò. Dario. Eccoci qua, allora. Ciao Angelo, un saluto. Innanzitutto parliamo di questo giro del 150esimo. Facciamo una domanda non tecnica. Il giro è sempre stata un'occasione per riunificare questo paese, un collante straordinario. Ecco, sentite una responsabilità maggiore quest'anno proprio per questo evento, anche perché in un paese che comunque qualche problemino di divisioni nord, sud, guelfi, ghibellini e via dicendo ci sono sempre. Cosa ne pensi? Beh, ciao Dario, grazie per questa domanda. Sì, la sentiamo questa responsabilità, ma per noi è una costante trovare ogni anno una responsabilità a cui rendere conto. C'è stato il centenario della nascita del Giro d'Italia, c'è stato il bicentenario della nascita di Garibaldi, c'è stato il sessantenario della prima Vespa, c'è stato questo, c'è stato quell'altro. Ogni anno il Giro d'Italia cerca di assolvere la funzione di sottolineare le specificità sociali, storiche e culturali di questo paese. Quest'anno a maggior ragione, e cercheremo di riunire, di unificare l'Italia ancora di più di quanto tradizionalmente accada ogni mese di maggio. Un giro quasi completo, 17 regioni, ha visto? Sì, 17 regioni su 20, sono rimaste fuori la Valle d'Aosta, la Puglia e la Sardegna, anche se dalla Sardegna nel 2007 abbiamo avuto una grande partenza, appunto nel bicentenario della nascita di Garibaldi, con quella cronometro a squadre che partiva da Caprera e arrivava alla Maddalena. Andrea Zorzi sta pure per partire per un suo personalissimo Giro d'Italia, quello sui luoghi dello sport, che pure documenteremo. Non lo farai però in bicicletta. Giro d'Italia. lo faremo in camper, però l'idea che i luoghi dello sport possono raccontare un bel pezzo della nostra storia è la chiave del nostro viaggio. E in questo senso la domanda per Angelo era proprio quella che, se si pensa al ciclismo, è quello che più di altre discipline è legata anche al nostro passato, anche molto molto lontano, ed è forse per questo che si nota di più la differenza tra il vecchio ciclismo, quello quasi leggero, e quello moderno, che ha tutti i pro e i contro della modernità. Come vivete da organizzatori questa grande distanza tra il passato e il presente? Guarda, io credo che il ciclismo a colori sia apprezzabile e apprezzato almeno quanto il ciclismo in bianco e nero, senza voler fare della retorica. È vero che i momenti epici sono passati, ma è altrettanto vero che si è evoluta la vita quotidiana, cioè l'alimentazione di adesso, le strade di adesso, la tecnologia di adesso, voglio dire, sono ben al di là di quanto offrisse l'Italia nel 1909, quando è nato il Giro d'Italia, o nel 1946, quando si è rimesso in movimento dopo la Seconda Guerra Mondiale. Io credo che tra un anno avremo il Giro d'Italia in 3D, l'anno scorso l'abbiamo avuto praticamente in alta definizione, quindi ogni anno c'è un Giro d'Italia che è in linea con i tempi e con la contemporaneità. tutto questo contribuisce a far grande il Giro d'Italia, che è l'evento per antonomasia più amato e più popolato e più popolare d'Italia, perché non è segmentante, perché il Giro d'Italia è unificante, non esiste il fenomeno dell'oliganismo, e andare in giro in bicicletta a 40 all'ora permette alle telecamere di mostrare tutte quelle bellezze naturali e geografiche che tutti gli altri sport non consentono. Cioè la pallavolo, il basket lo giochi dentro un palazzetto, il calcio dentro uno stadio, la Formula 1 e il MotoGP dentro un autodromo. Ma la bellezza di questo paese, che dovrebbe essere sfruttata, a mio giudizio, dal Ministero del Turismo per fare il sistema paese veramente, la puoi godere soltanto andando in bicicletta. Sì, è un gigantesco happening dove trovi di tutto sulle montagne in pianura, ad ogni curva, è pazzesco il Giro d'Italia. Tra l'altro, come accennava, il fatto che si faccia all'aperto e in movimento rende veramente unica questa disciplina. Però dopo una lunga serie legittima di motivi di orgoglio per il Giro d'Italia, mi resta da chiedere anche quali sono invece le zone che creano un po' di preoccupazione, sia dal punto di vista organizzativo, ma anche quello del ciclismo e della salute del ciclismo in generale. Cioè, tu dici le zone d'ombra. Sì. Zone d'ombra, adesso sentiamo il direttore. Però, direttore, tante luci, come dicevamo, come il parterre de roi degli iscritti, il percorso, le regioni toccate, i 150 anni dell'Unità d'Italia, qualche ombra che resta, come ad esempio l'assenza di Ivan Basso dal punto di vista agonistico, anche se insomma si tratta di legittima programmazione, io credo, da parte di Basso, che ha il tour nel mirino. Le solite paure che in questi giorni hanno i colori della Lampre, anche se va detto, ma non perché sei qui tu, ma è cronaca, che da quando hai preso il timone non c'è più il terrore del tramonto che c'era nei primi anni 2000, no? Quando dopo la corsa scattavano le perquisizioni. Beh, allora, dividiamo i discorsi su due livelli. Le preoccupazioni sono costanti e quotidiane, perché essendo in giro un evento che si svolge per strada e non in uno stadio e non in un posto chiuso, il gatto nero che ti attraversa la strada, o il cane grigio che ti fa saltare i corridori, o la nonnina poverina che torna dalla spesa e attraversa la strada, la trovi ad ogni angolo di strada. Questo è la preoccupazione costante. Il cono d'ombra sotto cui vive il Giro d'Italia costantemente, ma il ciclismo, è il cono d'ombra che il ciclismo ha il coraggio di ammettere per cercare di epurarsi dall'interno. È evidente che se ci sono delle discipline che non sottopongono i propri atleti a dei controlli medici, a dei passaporti biologici, a degli screening quotidiani, lì fenomeni di doping non ce ne saranno mai. Certo. Ok? Io ho sentito un presidente della Federazione Internazionale del sollevamento pesi dire: ma perché devo fare i controlli doping nel mio sport, che tanto non c'è il doping? Voglio dire, è il cane che si morde la coda. Il ciclismo è entrato in una fase in cui ha il coraggio di epurarsi dall'interno, e l'Italia è una nazione pilota in questo senso. Sì, sì. Il colpo che ha dato sulla scrivania il presidente Di Rocco, su invito ovviamente di Gianni Petrucci, di raddoppiamo le pene, ipotizziamo anche la radiazione, che è una decisione che sta al di fuori addirittura delle regole della WADA, ok? Sono testimonianze forti. Assolutamente. L'anno scorso il Giro d'Italia si è laureata, è l'evento a cui sono stati effettuati il maggior numero di prelievi di sangue e di urine, con il maggior numero di analisi. Non voglio fare il nome di nessuno, non voglio fare guardare nel piatto del vicino di tavolo, però voglio dire, questo è un paese che a un certo punto ha scoperto le provette con le urine di qualche atleta in una cantina che non era mai stata analizzata. Se non le analizzi, evidentemente non trovi né positivi né negativi. Non c'è dubbio, poi fai bene ad insistere a sottolineare il fatto che il ciclismo italiano è assolutamente all'avanguardia da questo punto di vista, perché duri come noi non c'è nessuno, e questo possiamo dirlo senza timore di smentita. Poi tu lo sai meglio di me, no? La mamma degli imbecilli è sempre incinta, quindi qualche tupidotto lo si trova sempre in giro, nella vita e anche nello sport. Certo, ci fermiamo un attimo per il traffico, sta lì direttore, ci farai compagnia ancora per un po'. Sempre con noi e con voi naturalmente Angelo Zumagnan, direttore del Giro d'Italia che sta per partire. Potete anche chiamare e chiedere quel che volete. 800 24 00 24, numero verde. Dario, che giro sarà? Sarà un giro, sai, innanzitutto dominato da Contador in tutti i sensi, dal punto di vista mediatico e dal punto di vista, immagino, agonistico. Poi ci saranno alcuni nostri corridori, Scarponi, Nibali e altri che possono mettergli bastoni tra le ruote. Ecco, per chiudere un po', tenere sempre aperto il discorso che facevamo dell'ombra che c'è sempre sul doping, così poi ce la togliamo dai piedi. Ecco, una potrebbe essere quella di Contador. Noi sappiamo che è stato graziato dalla giustizia spagnola, ecco. Però ecco, su di lui poi c'è sempre, pesa il possibile giudizio dopo il giro del Tribunale Internazionale. Ecco, Angelo, pensi che questo possa essere un problema riguardo al fatto che c'è un po', insomma, questa cosa sospesa sopra il giro? Ma certo che è un problema, ma è un problema molto spesso più mediatico che per la gente. Allora, la giustizia sportiva ha sempre avuto dei grandi vantaggi rispetto alla giustizia ordinaria, perché riusciva ad emettere delle sentenze o a prendere delle decisioni in tempi strettissimi. Qui si sta parlando di un caso rivelatosi il 21 luglio del 2010 e siamo al 30 aprile del 2009 e di sicuro fino al mese di del 2011 e sicuramente fino al mese di giugno non potranno accadere dei dibattiti, delle soluzioni, delle decisioni del tribunale dello sport. Ebbene, questo è il vero scandalo, non è il fatto che si discuta di un corridore che è stato assolto dalla propria federazione perché evidentemente non c'erano degli elementi sufficienti a squalificarlo. E questo è quello che veramente mi rattrista e mi dà rabbia in certi momenti. Ma quel che più mi interessa è che Contador venga al Giro d'Italia, corre il Giro d'Italia da pulito e se deve vincerlo, che lo vinca da pulito. In un anno in cui ci avremo il numero uno delle grandi corse a tappe, Contador appunto, il numero uno dei giovani che guardano al futuro nella possibilità di poter contrastare Contador, che è Vincenzo Nibali, il numero uno dei grandi sprinter, che è Mark Cavendish, eccetera, eccetera, eccetera. La qualità del giro improntato all'internazionalità e all'evento di eccellenza è in crescita ogni anno e di questo ne siamo fermamente orgogliosi nel RCS Sport e soprattutto la Gazzetta dello Sport, che è la mamma del Giro d'Italia. Poi, se dopo il Giro d'Italia il signor Contador dovrà essere punito per un reato commesso al Tour de France del 2010, ne prenderemo atto, ma l'importante è che venga il giro, che lo corra da pulito, deve vincerlo, che lo vinca da pulito. Certo, certo. Ferdinando da Varese, primo ascoltatore di oggi, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo dire che oltre alla squalifica per chi fa si dopa, bisogna anche tirargli via i premi che lui vince. Perché così si può migliorare tutto quello che riguarda la faccenda sportiva. Sì, possiamo discutere, guadagnano miliardi, però possiamo discutere di sanzioni all'infinito. Quando lo diceva prima Angelo Zomenian, insomma, è in sede di discussione proprio la condanna a morte sportiva, cioè addirittura la radiazione, cui discorso aderisco, l'ho sempre fatto perché forse potrebbe essere questa pena draconiana l'unica possibile. Non vorrei però ridurre l'intero discorso adesso a questione di doping, perché non mi piace. Perché dicevamo prima, parlavamo di un giro in cui c'è un Contador, lasciamo stare questo discorso del giudizio pendente, però Contador che deve dimostrare una cosa che secondo me oggi è impossibile, cioè quella di tornare a vincere nella stessa stagione Giro e Tour, e sono molto curioso di vedere se nel ciclismo del 2011 ciò sia ancora possibile. Andrea, tu che dici? Beh, che è realisticamente molto difficile perché negli ultimi anni non è accaduto. Non ho le idee così chiare di perché sia così complicato, immagino che la preparazione sia molto più attenta, dettagliata rispetto al passato e che forse gli sforzi necessari per vincere un giro importante come quello italiano, il Tour de France, impediscano di avere una prestazione alta per periodi lunghi. Se Contador ci riesce, abbatterà un'altra barriera, come già molte ne ha battute. È possibile abbattere questa barriera secondo te, direttore, nel 2011? Io credo che sia possibile. Ed è l'unica barriera che divide i corridori o i campioni, definiamoli normali, dai campionissimi, perché Coppi, anche Till, Merckx, Hinault, Indurain, eccetera, si sono laureati campionissimi perché sono stati capaci di vincere il Giro e il Tour nello stesso anno. Io sono, come dire, abbastanza in confidenza con Alberto Contador e vi posso dire che lui culla un sogno addirittura più grande. Lui vuole essere il primo nella storia a vincere nello stesso anno il Giro, il Tour e la Vuelta. Non so se riuscirà a farlo quest'anno, non so quali altre gare oltre al Giro d'Italia correrà o potrà correre, ma credetemi, il suo grande sogno nel cassetto è quello di fare la tripletta. Perché è impossibile, come Mourinho, il triplete. No, secondo me Contador ha tutti i mezzi tecnici per farlo, perché è forte in tutti i settori, cronometro, salita, certo. E poi ha una tenuta mentale fantastica, che credo sia il vero problema poi di questo periodo ciclistico, nel senso di reggere tutte le pressioni che ci sono, certo, in una stagione così lunga. Infatti rispetto al passato noi vediamo che una volta vincevano da marzo dalla Sanremo fino al Giro, certo, di Lombardia. Adesso li vediamo due mesi, poi spariscono per un po', ed è uno dei problemi che credo crei un po' di disaffezione verso il ciclismo, perché noi, insomma, è bello di un campione che lo si veda sempre, ecco, certo, diciamo la verità. E che l'assenza di Ivan Basso, direttore, è un problema dell'ultima maglia rosa? Ma guardate, Ivan Basso non c'era neanche due anni fa che era squalificato. Il Giro è entrato oramai nella dimensione che è il Giro a creare il campione o il campionissimo, piuttosto che essere campione dipendente, e questo è un altro grande passo in avanti che ha fatto il Giro d'Italia. Noi siamo rammaricati del fatto che Basso non torni quest'anno a difendere la maglia rosa conquistata un anno fa, nell'anno della propria resurrezione, nell'anno del proprio risorgimento, diciamolo così, atletico e emozionale. Contiamo di riaverlo nel 2012, ovviamente, ma credo anche che, arrivato alla sua età, con una situazione internazionale così abbastanza fluida e soprattutto con un Tour de France con così pochi chilometri a cronometro com'è il Tour de France di quest'anno, o Basso si gioca il tutto per tutto al Tour del 2011 o se no difficilmente riuscirà a vincere il Tour de France. Un'altra curiosità per il direttore: è possibile fare un numero di quante persone con vari ruoli e responsabilità collaborano per organizzare il Giro? Certo, sì, perché siccome li abbiamo tutti a libro paga, ve lo posso dire con esattezza e con nome e cognome. Okay? Basta il numero allora. la nostra è una squadra di una cinquantina di persone nella quotidianità, che diventano più di 220 durante il Giro d'Italia, a cui si assommano tutti i dipendenti delle società fornitrici, eccetera. Sappiate che, approssimato per difetto, noi mettiamo a dormire ogni sera 1.080 persone, poi ce ne sono altre 500 che viaggiano per i fatti loro. La carovana del Giro è oltre i 1.500-1.600 persone. È un paese che si muove tutti i giorni. Sento la posta che la devi andare a cercare, con il collegamento telefonico che te lo devi fare, con il semaforo rosso che trovi sempre, con la macchina parcheggiata in un posto improvviso, eccetera. Devo raccontare un aneddoto di Carlo Genta. Allora, ha detto che lui ha fatto per un po' di anni, ha seguito Giro d'Italia come giornalista. Una volta superato questo test, si può fare qualunque altro evento sportivo che risulta più facile. Le Olimpiadi sono una barzelletta dopo che hai fatto Giro d'Italia. Forse ecco il Tour de France, potrei aggiungere, ci mette una... Ne sa molto di più. No, nel senso che Angelo lo sa benissimo, perché essendo ancora più grande come paese ti crea qualche problema di distanza e di caldo, però va benissimo anche lì. Sì, però generalmente per il giornalista italiano il Tour de France è quasi di passaggio, no? Perché sono rari gli anni in cui sei così concentrato o così stressato da arrivare stremato alla fine del Tour, perché c'hai un campione tuo, del tuo paese, che ti obbliga a degli straordinari sempre quotidianamente. Io credo che nella mia vita da giornalista veramente l'evento che mi è costato più fatica è stata l'Olimpiade di Los Angeles nell'84, perché per via delle 9 ore di fuso orario di diversità non si dormiva praticamente mai e si lavorava praticamente sempre. Sei rimasto sul fuso orario di Milano per un mese. Francesco, provincia di Viterbo, altro ascoltatore, 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde. Dica, Francesco. Buonasera a tutti, buonasera Italia. Allora, alcune domande. Secondo me il Giro d'Italia adesso, come adesso, tecnicamente, no, come spettacolarità, è superiore al Giro di Francia, adesso come adesso, e questa è una mia considerazione. Seconda cosa, io abito vicino a Orvieto, con i miei figli già stiamo aspettando l'11 di maggio, è il giorno in cui a Orvieto, dopo tanti anni, diciamo, queste parti arriverà il Giro d'Italia, e vi assicuro che già è area di festa, tutti gli appassionati di ciclismo già sono in ansia, in aspettativa per questo evento che per tutti i paesi qua intorno veramente è una festa, perché il Giro d'Italia essenzialmente è una festa di paese, poi alla fine è un paese che si muove, è una festa italiana, sì. Nell'anno dei 150 anni secondo me l'Italia ha un patrimonio che è il Giro d'Italia, ecco, che è molto più nostro di quanto non sia dei francesi il Giro di Francia, che ormai è diventato troppo spettacolare secondo me. Troppo spettacolare, troppo grande, troppo grande rende meglio l'idea, si figuri che io ho sotto il naso l'email di un ascoltatore di Brescia, Stefano Mazza, che dice: pensi che ho addirittura preso ferie per l'ultima settimana del Giro d'Italia, e domanda, così giriamo tutto il pacchetto delle considerazioni ad Angelo Zomagnan. Domanda questo ascoltatore via email: si vociferava di una prossima eventuale partenza del Giro da New York o da Washington, quanto c'è di vero e di realmente fattibile? Angelo? Non c'è. Angelo è scomparso. Angelo è scomparso. Lo recupereremo. Ma lo recuperiamo semmai dopo la pausa. Dopo la pausa, così facciamo altri. È tutto calcolato. Sì, abbiamo fatto calcolare in modo suspense per creare un'attesa. Lo recuperiamo dopo. No, pensa. No, ma effettivamente il Giro doveva partire da Washington. Là. Poi dopo c'è stato il cambio in corsa, ma credo che sia ancora così tra le idee. Poi lo scopriamo. E adesso ce lo facciamo dire. Ce lo facciamo dire. Perché dici no. Non ti piace? Eh? A me le partenze staccate non piacciono molto. Non ti piace la partenza staccata? Ho questa strana vecchia idea che il Giro debba essere questa continuità geografica, mi piace l'idea che rimanga tale. Già la partenza da Atene o da... L'anno prossimo dalla Danimarca. Tanto che ci sarà il premier danese alla partenza di questo Giro d'Italia, e Angelo Zomagnan, poi lo facciamo ripetere, ha detto mi piacerebbe ci fosse anche quello italiano. Potremmo chiedergli quali sono le ragioni per cui si forza un po' questa unità geografica, evidentemente le ragioni sono... Ma anche per dargli un respiro così di maggior interesse mediatico. Adesso facciamo così, ci fermiamo un attimo, così poi con calma giriamo questo pacco di considerazioni ad Angelo Zomagnan. Dunque, Andrea Zorzi, Dario Ceccarelli ed io vorremmo abusare per qualche altro minuto della pazienza di Angelo Zomagnan, direttore del Giro d'Italia, perché ci stiamo divertendo e stiamo, insomma, io credo scoprendo tra le pieghe del Giro un sacco di cose. Dove eravamo rimasti, Dario, con le considerazioni? Eravamo rimasti col vagoncino delle considerazioni. Ma forse alla Danimarca, da dove partirà il Giro l'anno prossimo? E perché? E poi il sogno dell'America. Direttore. Allora, ma uno dei canoni fondamentali del nuovo Giro d'Italia, che non vuole più essere il Giro degli italiani ma essere un Giro d'Italia tout court, una finestra sul mondo e dal mondo una finestra sull'Italia, è quello dell'internazionalità. Quindi stiamo adottando la politica di partire un anno dall'Italia e un altro anno, l'anno successivo, da fuori Italia, dall'estero. Ci sono moltissime candidature e una di queste candidature è arrivata dalla Danimarca, il che ci permette di avvicinare il Giro d'Italia ai paesi scandinavi, alla Svezia, alla Norvegia, alla Finlandia, e ad essere ad un passo dalla Germania, che è un paese che manca al Giro d'Italia e al ciclismo esattamente quanto il ciclismo vero manca a quel paese che è la Germania. Allora, che cosa? Questo mi faccio un esempio: l'anno scorso il Giro d'Italia è partito dall'Olanda, il Tour è partito da Rotterdam, la Vuelta da Assen, dall'autodromo, il Giro d'Italia da Amsterdam, e scusate se è poco, abbiamo trovato in tre giorni, abbiamo incontrato in tre giorni 1,5 milioni di persone. Siamo partiti da una città che ha l'anima appesa ad una bicicletta, che pedala tutti i giorni in bicicletta, una città di 700.000 abitanti con 2.150.000 biciclette censite. Abbiamo fatto un'operazione di co-marketing con gli olandesi e con la città di Amsterdam, che è stata straordinaria e che è una pietra angolare per lo sviluppo del concetto dell'internazionalità del Giro. Quindi il Giro ha bisogno dell'estero, esattamente come l'estero ha tanta voglia di Giro, sì, d'Italia, che significa aumentare i paesi di diffusione televisiva delle immagini, certo, del Giro. Angelo, siamo, ma col sogno americano, c'è ancora il sogno americano? Andrea, tu mi insegni che le belle idee e i grandi sogni non muoiono mai. Ad Andrea Zosi, per la verità, prima mi diceva, da ex azzurro, no? Da sono uno un po', che, da, sono un po' da conservatore. Uno che, esatto, da uno che non può che essere conservatore, diceva prima, a me piace di più così, si parte e si arriva in Italia tutto nostro, Andrea. Ma come? Arrivi da uno sport che un anno si inventava l'Olimpiade, l'anno dopo la Coppa del Mondo, e poi tutto quello che era immaginabile. Bravissimo, esattamente per quello, perché non condivido questa proliferazione di eventi che hanno a che fare un po' col marketing, e sono convinto invece che la ragione pura sia un po' diversa. Nel caso del ciclismo è quello di stare in Italia, anche se in questo modo è veramente una grandissima vetrina per l'estero. Poi capisco che andare ad Amsterdam o a Copenaghen il prossimo anno sia andare in casa delle biciclette, certo, e questo è veramente... Però, direttore, non mi hai detto se in America si va o no, si andrà o no prima o poi. È nel cassetto quell'idea, perché ci sono dei nodi da sciogliere dal punto di vista economico, dal punto di vista logistico e anche dal punto di vista politico. Dario. Angelo, a proposito di nodi economici, Radio 24, sai, non può esimersi da questi temi. Ecco, molti si domandano, ma il Giro d'Italia quanto costa? Quanto vale? Quanto vale, quanto costa? Si può fare qualche cifra, un'idea? Ma sì, questo lo possiamo fare. Vi posso dare due elementi sostanziali. Tra il diretto e l'indotto, il Giro d'Italia è ufficialmente, questo è certificato dai nostri esperti, un prodotto che muove 500 milioni di euro, grosso modo, dico tra direttamente e l'indotto. La policy che abbiamo fatto sulle località di tappa, ad esempio, sottolinea il moltiplicatore anche di 10, cioè l'indotto che viene lasciato in una città che ospita il Giro d'Italia, soprattutto in arrivo più che in partenza, diciamo così, una giornata è attorno al 1.700.000 euro, 2 milioni di euro, quindi vuol dire che per le città ospitare il Giro d'Italia è veramente un affare. Se pensate che lungo le strade ci sono 10 milioni e mezzo di persone, che si toccano 550 paesi, municipalità e più, e questi 10 milioni e mezzo ad esempio di persone, sembra un numero così perché ormai le cifre non fanno neanche più effetto, ma 10 milioni e mezzo sono più di 130 stadi di San Siro quando c'è il derby, sì. Non è un giochino tanto semplice, e gestire ogni giorno 4,5-5 stadi di San Siro con tutto quello che c'è attorno, dentro e fuori, e soprattutto essere sulle strade, come si diceva prima, non è una cosa molto semplice. No. Delle televisioni ve l'ho detto, quest'anno saranno collegati col Giro d'Italia 167 paesi. 350 milioni di telespettatori potenziali, anche questo è un numero impressionante. Unici, ma unici, guardate, sì, che è un numero straordinario. Lo streaming su Gazzetta.it dell'anno scorso, delle immagini del Giro d'Italia, ha avuto un incremento del 129%, perché oramai è difficile trovare un perimetro omogeneo su cui confrontare gli eventi da un anno all'altro. L'anno scorso la RAI ha promosso lo switch off di 6 regioni, tra cui la Lombardia, proprio immediatamente prima la partenza del Giro d'Italia, quindi ci sono in giro delle tabelle di raffronto con gli anni precedenti che sono, come dire, approssimative, perché non sono state quantificate ad esempio gli spettatori che hanno seguito il giro sul digitale. Rispetto a tutti gli altri sport, e qui faccio uno spottone per il Giro d'Italia è in trend positivo, è in crescita, guadagna spettatori, guadagna punti di share, speriamo che un giorno guadagni anche dei soldi. Una delle poche aziende italiane che ha il trend in crescita. Io volevo far parlare Gianni dalla provincia di Monza, che è stato lì per parecchio tempo agganciato. Buonasera. Buonasera cari, saluto a tutti. Buonasera Gianni, dica. Allora, innanzitutto mi avete bruciato la domanda, perché effettivamente no. Pensavo anch'io la stessa cosa, cioè volevo chiedere maggiori informazioni sull'idea di Washington. Pensavo che si concretizzasse già quest'anno, ma ho visto che purtroppo è stata slittata. Purtroppo non c'è una data, non c'è, da quanto ho capito, non c'è un'assicurazione sul 2013-2014. A quanto mi risulta, mi pare che anche la Federazione Ciclistica Italiana abbia delle remore su questa tappa in America, perché la ritengono eccessivamente dispendiosa per le energie dei ciclisti. Molto faticosa per il fuso orario, per il trasporto, però io spero proprio che vada in porto, anche perché io ritengo che il nostro Giro d'Italia sia un prodotto di eccellenza, visto che siamo a Radio 24, un prodotto di eccellenza, quindi va anche esportato, perché sono appunto le eccellenze italiane, quindi vanno portate all'estero. Io non sono d'accordo con il tuo collega che praticamente dice che il Giro d'Italia deve rimanere dentro le mura domestiche. Beh, ma sa, Andrea Zorzi ha portato talmente tante volte la maglia azzurra che non può che dire questo. No, esatto, è un italiano vero, diciamo. Di solito lo attacco brutalmente, però insomma mi permetta, ma così. Solo lui può farlo. No. Ho capito, però il problema, secondo me, l'opportunità di esportare questo prodotto nasce anche dal fatto che, penso che Zomegna sia d'accordo su questo, cioè il ciclismo, secondo me, rispetto agli altri sport, è uno sport che unisce, che rende tutti fratelli. Adesso non voglio essere retorico, ma se per esempio esportiamo, andiamo all'estero, cioè facciamo una trasferta di una partita di calcio, ci può essere sempre qualche contrasto tra la tifoseria. Il ciclismo invece unisce, cioè si celebra, si osanna il campione, sia esso tedesco, francese, irlandese, proprio perché è lo sforzo, l'aspetto umano che prevale, sì. L'entusiasmo. Sì, sì, quindi sì, in questo senso ritengo che sia, io auspico appunto che si possa fare anche l'esperienza americana. Io l'anno scorso ho partecipato all'esperienza olandese ad Amsterdam, ad Utrecht e anche all'altra località che adesso non ricordo, ed è stata un'esperienza fantastica, che perché ho visto che le cittadine, i cittadini olandesi sono molto entusiasmati. E beh, ma lì vivono in bicicletta, vanno a dormire con la bicicletta accanto al letto. Era così. Proprio anche l'ambientazione. Beh, insomma, allora la preghiera che si leva oggi dai nostri ascoltatori da Radio 24, salvo che da Andrea Zorzi, ad Angelo Zomegnale, questa portaci in America. Direttore, tiriamo fuori quel sogno dal cassetto, insomma. Sì, poi va bene, non è proprio esattamente così la posizione dell'Unione Ciclistica Internazionale, perché poi, diciamocelo con schiettezza, l'anno scorso hanno trovato dei corridori che rientravano in albergo alle 3:30 del mattino con 6 ore di fuso orario, partendo di sera da Washington si arriverebbe in Italia alle 7:30-8 del mattino, che al massimo sono le 2, e senza neanche bere tanta birra. il fuso orario è generalmente calcolato sulle persone normali, non sui campioni, no? Che lo assorbono in 24-48 ore al massimo, perché sono degli atleti che sono preparati per scalare lo Stelvio. Figuratevi se gli dà fastidio fare 9 ore di aereo in stato seduti. È vero, Andrea Zorzi? Ma alto come sono, era faticoso viaggiare in aereo, non c'era mai spazio abbastanza, e farlo in tanti alti è ancora più complicato. Però è verissimo che l'abitudine a viaggiare molto ti permette di recuperare in fretta, e poi tra l'altro gli allenatori sono molto bravi, perché appena sei a terra ti portano subito in palestra. È un allenamento faticosissimo, ma ti permette di recuperare molto più in fretta. Direttore, io prima di salutarti e ringraziarti per questa partecipazione, non so se, insomma, nel tuo ruolo precedente te lo chiedevo sempre, tutte le volte, adesso non so se posso, ma lo faccio lo stesso: chi lo vince questo giro? Accidenti Giancarlo, sì, allora io adesso però ti rispondo in un modo diverso rispetto a tutte le altre volte. Mi interessa che lo vinca un corridore onesto, punto. Sì. Sì, sì, questo a tutti noi, non c'è dubbio. E poi sia italiano, spagnolo. Ma se è un italiano è meglio, dai, direttore, dillo, se è italiano è meglio. Sì, se è un italiano è meglio. Direttore, buon lavoro. Ci sentiamo a presto. Siete stati gentilissimi, sono a disposizione. Ci sentiamo allora a giro in corso. Ci sentiamo a giro in corso con Angelo Zomegnan. Salve. Ci sentiamo invece con i nostri ascoltatori, anche perché abbiamo un'altra scheda da farvi sentire sempre sul ciclismo di Cristiano Bartolone, che vorrei che Dario Ceccarelli poi commentasse penna finissima qual è, però dopo il traffico. Non è che ad aspettare troppo si rischia che i francesi ci copino e portino il tour a New York prima di noi. Sveglia, scrive un ascoltatore. Andrea Zorzi non vuole il giro parte dall'estero. Beh, io e Dario Ceccarelli invece a noi ci piace, caro Andrea. Io aggiungo anche una cosa, però, oltre all'internazionalità, sono bellissime anche le tappe del sud più sud d'Italia. Sì. È una cosa che io quando facevo così, a quei tempi il Giro d'Italia, era un piacere ogni tanto finire in questi posti desolati dove c'era un sole che batteva a martello col carabiniere appeso lì che, e ti sentivi veramente ecco l'Italia, ecco lì, e respiravi, e poi vedevi tutta questa gente che era strafelice. Sì. E devo dire che era un momento bello, c'è un po' di pizzico di retorica, però era vero. Ma voi che lo sapete, c'è un aumento proporzionale delle transenne lungo le tappe dal passato ai tempi recenti? Qui è come il pile, no, del Giro. No, perché l'impressione, l'immagine è che qualche anno fa si corresse tranquillamente con un po' di attenzione. Io credo che siano aumentate le misure di sicurezza e quindi questo ha fatto sì che siano aumentate anche tutte le transenne, le cose eccetera, perché sicurezza e sponsor, sì, e può darsi anche questo, certo. Sì. Storia delle transenne, comunque sicurezza e sponsor naturalmente, ma è normale, no? In ogni sport aumentano 500 milioni di euro, ma gli sponsor, sì. 500 milioni di euro, ma è molto, ma molto, molto di più di quanto pensassi. No, ma la cosa impressionante comunque è anche vero che i numeri del ciclismo fanno paura, perché i numeri del ciclismo fanno paura, cioè se tu vai su una montagna, e Dario l'ha fatto un miliardo di volte, sulla montagna di un grande giro, è uno stadio rovesciato, cioè ti viene in mente uno stadio al contrario, no? È uno stadio vero tutta la montagna, quindi è una cosa mostruosa, sì, e sì. Questo ti permette di capire che nonostante doping, mille problemi, mille storie, mille venti contrari, il ciclismo sia ancora uno sport da un punto di vista... Tanto che l'esposizione può essere appetibile, dell'esposizione, no? Quello che dici, tanto il pubblico italiano è impermeabile a tutti gli scandali che ci sono stati, perché se vai a vedere una tappa di queste è come se non fosse successo nulla. Poi è vero che sui giornali e cose il ciclismo ha perso un po' del suo appeal che c'aveva negli anni 60, 70, addirittura 50, però ecco, c'è questo fatto che il pubblico, quello che aspetta sul Mortirolo, quello che è sul Ghisallo, è proprio innamorato di quello stare lì sulla montagna, magari bersi un bicchiere di vino, stare con gli amici, cantare e vedere passare, come diceva appunto Paolo Conte nella canzone, Bartali allora, Nibali adesso. Questo è un po'. Sì, mentre gli ascoltatori insistono su storie di doping, ma io francamente non ne ho voglia. È chiaro che il ciclismo ha avuto i suoi problemi ed è precipitato in un baratro. Secondo me però sta con grande dignità cercando di uscire da questo baratro, con grande durezza, soprattutto il ciclismo italiano, torno a ripetere questo senza voler difendere nessuno. Io sentirei la scheda di Cristiano Bartolone e poi ne parliamo insieme, con il gran finale. Sentiamo. Alfonso Calzolari oggi avrebbe compiuto la bellezza di 124 anni, forse troppi anche per lui, l'uomo che vinse il Giro d'Italia più duro della storia. Calzolari aveva iniziato la carriera professionistica nel 1912 e già due anni più tardi si presentò al Via del Giro nel lotto dei favoriti. La partenza e l'arrivo erano previsti a Milano per un totale di 3.126 chilometri. Più o meno come oggi, solo che le tappe erano 8 e non 21. La più lunga fu la Lucca-Roma di 430 km, vinta da Costante Girardengo in 17 ore. Alfonso partì il 24 maggio 1914 con in testa il vaticinio di una cartomante bolognese. Vincerai il giro, ma rischierai la vita. E fu così davvero. Alle difficoltà altimetriche si sommò prima una potente nevicata che stremò i corridori, poi una regia occulta che tentava di frenare Alfonso. Sabotaggi, ruote bucate e indicazioni stradali sbagliate rendevano ogni metro infido. A Bari lo avvicinò un misterioso personaggio che gli offrì 15.000 lire per cedere il primo posto. Calzolari rifiutò e si mise in strada per L'Aquila. Non immaginava che il pericolo più grande lo stesse ancora attendendo. Una macchina tentò di investirlo provocandone la caduta. Riuscì a scamparla e ad aggiudicarsi la corsa rosa anche grazie all'uscita di scena del suo principale avversario, il milanese Giuseppe Azzini, scomparso a pochi chilometri dall'arrivo della Bari-L'Aquila e ritrovato il giorno dopo in un granaio in preda al delirio. Proprio storie d'altri tempi. Dario, ti ricordi quando l'hai raccontato queste storie? Cazzo, perché, e avevo fatto anche il giro dell'anno prima e avevo puntato su sto Calzolari che mi sembrava un giovane promettente. Sì. È stato il primo a dare lancia esatto. dell'incidente automobilistico. Poi l'anno dopo però sei arrivato tu che sono arrivato anch'io a farti compagnia. Farmi compagnia così. Sono belle queste storie perché ricordano anche poi la canzone Il bandito e il campione, non so, sì, mi viene in mente. Sì. No, poi, ragazzi, il ciclista sperso nel granaio in preda a un delirio che non sa più dov'era. No, ma... però qualcuna di strana l'avrei vista anche tu. Adesso, ma... adesso provando a tornare serie, cose che non ci riesce benissimo. Ma... ma sì, il giro è pieno di robe strane, un po', solo che a furia di raccontarcele non si capisce più se l'hai vissuta o l'hai sentita raccontare. Io a volte mi va insieme tutto. Non importa, è valida, vale tutto. Esempio, quella di Merckx che piangeva quando gli trovarono il famoso doping a Savona, no? Che uno come Merckx che piange come un bambino, così. Io non l'ho vista, però me l'hanno raccontata in televisione, poi l'avevamo vista tutti. A me è sempre piaciuto molto Taccone, anche lì io l'ho conosciuto dopo perché quando negli anni 60 lui vinceva ovviamente facevo i compiti a scuola e lo guardavo e sentivo De Zan, però poi sono andato a trovarlo ad Avezzano, no? E questo era veramente l'italiano vero, ecco, che dice Zoppi, Giro d'Italia, perché lui diceva il ciclismo è uno sport da lupi, gli uomini sono lupi e io voglio vincere, perché e ci metteva quell'anima, quella forza, quella cattiveria che era proprio la storia del ciclismo. Una cosa che mi ricordo e non me ne vorrà bugno è stato il giro di quando venne fuori che aveva quella fidanzata che fu la ripetizione della Dama Bianca di Coppi, no? E lì ci fu uno sdoganamento del ciclismo, del giornalismo ciclistico, perché fino a quell'epoca le vicende private, ma anche quelle, ne dico, di Bugno eccetera, non si andavano a toccare. Noi del giro si sapeva qualcosa, però a un certo punto ci si rese conto che la cosa era troppo grossa e allora a quel punto ognuno ha cominciato a prendersi la sua macchina, a scrivere al computer, già ha cominciato a battere un tasto, un altro e poi ha mandato tutti ai giornali ed è venuta fuori questa storia e lì ci siamo resi conto che il mondo stava cambiando, no? Proprio giornalisticamente, no? Sì. Perché la notizia non era più che Bugno vincesse o perdesse, ma che aveva questa ragazza che... aveva la dama. Dama dell'epoca. A proposito di ricordi, i radioascoltatori non sanno che noi dopo la puntata andiamo qui sotto agli uffici di Radio 24 a fare due chiacchiere. E settimana scorsa Carlo mi ha raccontato che lui ha conosciuto da vicino Pantani. Sì, beh, lui molto meglio di me in realtà. Pantani, gli ultimi giri d'Italia, sono stati anche gli ultimi miei in maniera molto differente. Però uno che l'ha conosciuto veramente molto bene è qui presente Dario Ceccarelli, che io ho preso l'ultimo Pantani, cioè quello rientrato dalla delusione di Madonna di Campiglio, e quello uscito dall'ultimo giro, quello del 2003, quando disse qui a Milano feci questa intervista e disse: questo è stato il mio giro migliore, perché non l'ho vinto, però ho ritrovato il mio ciclismo, la mia gente eccetera. Da lì poi è sparito, non l'ha più visto nessuno. Mai, io ho il primo ricordo di Pantani quando aveva ancora i capelli, ecco che era. E me lo ricordo nel 2004 quando venne fuori a quel Giro d'Italia che si impose in due tappe, una a Linz se non sbaglio, e sbucò dal nulla perché nessuno di noi puntò nulla su Pantani perché era un nome che così 94 era il 94 e fu e rimanemmo tutti stupiti perché oltre a questa era nato per vincere, perché arrivò in sala stampa e si mise a parlare come uno che aveva già vinto chissà quanto, no? E tutti lo guardavamo un po' così, e poi sapeva raccontare benissimo la corsa. Io l'ho ascoltato, il pezzo era già scritto, perché lui aveva proprio descritto esattamente come era la dinamica della corsa, come era partito. Era un personaggio, purtroppo, ecco, ricordarlo così ci abbassa un po' il tono che avevamo di allegria, nel senso che tanto è scomparso. Però sai, Dario, è sempre lì. Ogni volta che parte il Giro d'Italia, il nome di Pantani alleggia sul giro e lo farà per sempre. Sì, però io credo che dopo Coppi, Pantani sia l'altro nome che resterà sempre nel ciclismo. Io credo che sia stato un grandissimo campione. Credo che abbia avuto così una lacuna, non una colpa, il fatto che era così troppo solo in realtà rispetto a quello che gli era cresciuto attorno, perché lo avvicinerei a Maradona come pressione che c'è stata attorno a lui. Secondo me a un certo punto gli è saltata, come dire, la centralina dei comandi, e ha fatto degli errori che poi gli si sono ricaduti addosso Le ha pagate tutte drammaticamente. Anche lui le ha pagate si tutte, è chiuso come in quel Maradona. Silenzio che poi l'ha portato a fare quelle cose che sappiamo. Dimmi, Andrea. Noi andiamo giù adesso, visto che il tempo passa velocissimo, tutte le puntate. Sì, adesso ci sarai ancora sabato prossimo, poi parti per il tuo Giro d'Italia, ma ti becchiamo al telefono, non c'è problema. La settimana prossima, tra l'altro, potrebbe essere con noi Van Basso, che avevamo annunciato in settimana, perché l'appuntamento era reale, ovviamente, però se ha deciso all'ultimo momento di partecipare al Giro di Romandia, come state leggendo, come ben sapete, però potrebbe essere con noi sabato prossimo nel giorno della partenza del Giro, sarebbe ancora più bello. Tanto noi ci sentiamo domani nel giorno in cui il Milan potrebbe vincere lo scudetto, dalle 4:30 fino alle 7 ne parleremo insieme, dalle 8:30 alle 9 c'è il basket. Io ringrazio Andrea Zorzi, Dario Ceccarelli, Giorgio De Luca e Cristiano Bartoloni in redazione, ringrazio Paolo Corleoni in regia. Ci sentiamo domani nel giorno che potrebbe incoronare Milan, potrebbe, domani vediamo.